Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, finalmente insieme, sono le 11:11. Oggi, cari amici, ci trasferiamo in cucina. Ci sono dei trucchetti, degli accorgimenti che usiamo per rendere i nostri piatti più buoni. Oggi potrebbe essere l'occasione per scambiarceli. Possiamo chiamarci all'800 24 00 24, ma oltre al sapore dobbiamo anche garantire ai nostri piatti, alle nostre ricette, un buon livello di sicurezza e di salubrità. Mi spiego. Se facciamo ad esempio le verdure, non basta che siano buone, ma devono anche conservare il più possibile il loro patrimonio di vitamine. Se decidiamo di cucinare il pesce, oltre a non renderlo stopposo, sarebbe bene evitare di disperdere il contenuto di sali minerali e antiossidanti, tra cui i famosi omega 3, di cui sentiamo spesso vantare le benefiche virtù. E la stessa attenzione dobbiamo avere nel cuocere la pasta, nel preparare la carne, ma tutto quello che finisce in padella va maneggiato con cura e conservato ancora adeguatamente. Molte ricette utilizzano gli avanzi. Benissimo, è un ottimo modo anche per risparmiare un po'. Ma come sapete, anche gli avanzi devono essere trattati con i guanti. Quindi mettiamoci subito all'opera, pronti a scrivere la puntata di oggi. Chiamateci. Se la cucina è il vostro regno, vi muovete con grande disinvoltura tra i fornelli, vi sentite molto ferrati in materia, sapete friggere, saltare, sbianchire, 800 24 00 24. La difficoltà del piatto è stabilire il rapporto fra i sapori del vino e il punto di cottura di ogni tipo di fegato, il quale prima deve avere macerato nello stesso vino in cui verrà cucinato a metà cottura, perché la cottura definitiva si farà dentro una pasta sfoglia. Esatto. Va bene? Benissimo. Bene. Allora si comincia. Dunque, lo sherry per i polli. Piano piano, così dolcemente intorno. Così basta. Il porto per l'anitra e lo champagne per l'oca. La grande abbuffata, ve lo ricordate? L'avete visto? Film magnifico, ma il nostro numero verde oggi è anche a disposizione per chi in cucina si sente un po' come un pesce fuor d'acqua. John Starks è un gran campione. Ha giocato da Dio ieri sera. Ok, sta zitto, vieni qui. Assaggia questo. Buono. Te l'ho mai detto che non sai mentire? Puzza. Sa di gorgonzola e terra. Oh mio Dio. Lui è qui. Chi? L'uomo del mercato. Gli ho detto che avrei preparato granchio alla Napoleone con pomme de... qualche cosa. E quello è venuto. Basta dirgli che l'abbiamo finita. No, digli che siamo chiusi. Non posso farlo. Granchio alla Napoleone? Questa sarà una tragedia. Allora, noi siamo pronti per voi, parlo al plurale perché qua siamo una vera e propria brigata, presente nelle grandi cucine. Intanto io a voi chiedo qual è l'alimento che maneggiate con maggiore disinvoltura e quale invece quello che vi dà più problemi, perché oggi ogni vostro contributo potrà contare sul commento e sull'aiuto di uno chef, Andrea Ribaldone, ormai amico della nostra trasmissione, uno chef stellato, ristorante La Fermata di Alessandria. Finalmente ti vedo. Ma che bello essere qua. Buongiorno a tutti, ciao Nico, bellissima giornata a Milano, è piacevole essere qua con voi. Ecco, sarà una puntata gustosa. A fianco di Andrea abbiamo la nostra dottoressa Paola Reverso, anche lei dello staff del nostro Daily Lab, tra l'altro nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Ciao Paola. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma avevamo bisogno anche di un direttore. Abbiamo scelto Venezia Villani, direttore di Cucina Naturale. Ciao Venezia. Ciao, buongiorno a tutti. Che sfrutteremo anche perché è una raffinata tecnologa alimentare, quindi ci spiegherà un po' anche l'arte, non solo di preparare i cibi, ma anche di conservarli alla giusta temperatura, di maneggiarli, no? Usando il tagliere giusto, lavando il coltello nel modo, no? Con la temperatura giusta, acqua insaponata, insomma, senza fare troppi pasticci. Che ricette insegnate tra l'altro questo mese? Beh, di che cosa vi occupate? Più di una ricetta? Voi... Sì, come sempre noi stiamo sulla stagionalità, perché sì. Cucina naturale per definizione ha sempre solo ricette di stagione, quindi ci sono le fragole, non solo dolci, anche salate. Cominciamo con qualcosa di più che primaverile, tipo le zucchine, e poi andiamo avanti con tantissime ricette, come sempre, più tutti i nostri consigli che diamo. E soprattutto avete questa attenzione, no? Alla composizione dei menù. Tante volte per noi è abbastanza difficile mettere insieme il primo con il secondo, è lì che facciamo gli errori e poi la dottoressa Reverso ci sgrida. E infatti dal numero di maggio su Cucina Naturale c'è la nostra nuova dieta, che è una dieta che non vuol dire necessariamente ipocalorica, nel senso che c'è sia ipocalorica, molto ipocalorica per chi ha bisogno proprio di tagliare, ma è anche una buona traccia per chi invece non ha abbastanza idee in cucina per poter fare un menù vario ed equilibrato e sempre, appunto, rimanendo nelle nostre peculiarità di stagione. Noi oggi naturalmente aspettiamo le vostre telefonate, raccontateci quello che state per mettere in pentola, quello che avete comperato oggi magari al mercato, quello che pensate di preparare per stasera. Se avete bisogno di aiuto, noi siamo a vostra disposizione, loro anzi. Io sono, a volte mi sento chef, a volte sono una pasticciona, sono a metà. Ditecelo, come vi sentite, se siete molto in gamba, se vi muovete con grande disinvoltura, sapete fare tutte le varie tecniche, oppure se tante volte vi trovate così a portare in tavola delle verdure un po' palliducce, della carne che non sa di nulla, del pesce un po' stopposo. Noi vi aiuteremo soprattutto a preservare anche il contenuto di sali, minerali, di vitamine e soprattutto a fare gli abbinamenti giusti. 800 24 0024. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Allora, iniziamo dagli spaghetti. Andrea, chi non sa buttare due spaghi all'ultimo momento e rimediare quindi un piatto veloce, buono, sano? Però non è, tante volte le ricette, quelle che sembrano più semplici come gli spaghetti o l'uovo al tegamino, richiedono un pochino di abilità, il rispetto di alcune regole. Ad esempio, ci sono ancora persone che non sanno esattamente quanto sale mettere, o se la pentola si tiene coperta o scoperta, o insomma qualche regola di base. Allora, spaghetti, quindi piatto nazionale. Cosa, innanzitutto scegliete una pasta buona. Buona è una pasta chiaramente di grano duro e quando guardate, quindi quando andate al mercato a scegliere, a comprare la pasta, guardate che non abbia una patina lucida, perché vuol dire che il grano che è stato usato è stato diciamo sforzato durante l'estrusione, quindi ha subito delle trasformazioni, non è il massimo. Quindi una pasta leggermente velata è una pasta sicuramente buona. Comprate e quindi sempre i prodotti buoni, avrete sicuramente una resa migliore. E poi l'acqua che bolle, tanta acqua che bolle forte, quindi vedete proprio un bollore deciso. Il sale è quello che avete piacere, però chiaramente un pugnetto di sale si mette sempre. quando l'acqua bolle è meglio, non così prima. Fate prima, sarebbe uguale se avete tempo, però fate prima, tutti abbiamo sempre di fretta. E poi cuoceteli al dentissimo e li andate a rifinire in padella di modo che il sugo si leghi bene con lo spaghetto e lo spaghetto, rilasciando l'amido, formi questo bel sughetto che sembra quasi col burro, ma col burro non è, basta l'olio. Basta. Olio e acqua di cottura e un attimo il salto in padella. Dottoressa Reverso, a proposito della cottura della pasta, Andrea dice consumatela al dente, non è solamente un problema di gusto, perché si digerisce anche meglio, è così? Sì, sicuramente si digerisce meglio, ma la cosa più importante è che consumata al dente abbiamo un basso indice glicemico. Già la pasta ha un basso indice glicemico. Cosa vuol dire basso indice glicemico? Vuol dire che quando noi mangiamo la pasta, il nostro pancreas, che è un organo che contiene delle cellule che liberano l'insulina, che è l'ormone che permette permette alle nostre cellule di fare entrare, di utilizzare il glucosio che è contenuto nella pasta, l'amido della pasta che poi diventa glucosio con la metabolizzazione, ed è, e quindi abbiamo la possibilità di trasformare tutto questo in poche parole in energia. Quindi energia significa no grasso. 8-0. Ecco fatto. Cristian? Senta, ma è questo che ho ordinato? Sì, è un risotto. Su speciale ricette che mio fratello e io abbiamo portato dall'Italia. È squisito, lo assaggi. Però c'è un contorno di spaghetti con questo, vero? Che è? Cioè, no. Credevo che tutti i secondi avessero per contorno gli spaghetti. Qualcuno sì, però, vede, lo risotto è riso, e cioè amido. E non si accorda per niente con la pasta. No, non ci sta buona. Ma io non... Tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Primo, ti prego, solo... per favore. Voglio sapere perché. Fammelo un contorno di spaghetti, per favore. Io voglio sapere per chi sono. Per la signora dello risotto. Ma come mangiano qua in America? Ma com'è possibile? Amido e carboidrati. Ma come mangiano qua in America? Andrea Ribaldone sentiva e sorrideva, ma io volevo chiedere a Paola Reverso, meglio la pasta o il riso, nutrizionalmente parlando? E poi quando si mangiano? A pranzo o a cena? Beh, vanno bene entrambi, dipende che cosa noi vogliamo fare, che cosa desideriamo dal nostro corpo, nel senso che il riso è un alimento che ha un indice glicemico un pochettino più alto rispetto alla pasta, tranne il basmati che ha un indice glicemico più o meno uguale. Quindi se siamo degli sportivi possiamo mangiare tranquillamente pasta o riso, non c'è problema, ma se abbiamo magari qualche chilo da perdere, allora è meglio la pasta e rispetto al riso. Se proprio amiamo il riso, però, allora mangiamola a pranzo, perché a cena è più facile che il carboidrato venga trasformato in grasso. Se noi non desideriamo questo, utilizziamo pasta e riso per il pranzo. Venezia, dove si conservano e come i cereali in genere, e una volta cotti come si conservano correttamente? Beh, i cereali si conservano benissimo un anno intero, come è giusto che sia, da un raccolto all'altro, quindi l'importante è che siano chiusi e in un ambiente non umido. Si conservano tranquillamente. Una volta cotti io non li terrei più di 2 giorni in frigorifero in un contenitore chiuso, parlando magari di riso, ecco, il riso integrale per esempio, che richiede una cottura lunga, non necessariamente può essere cotto in piccole quantità, se ne può cuocere un po' di più e usarlo quindi magari per un paio di preparazioni nel corso di 1, 2, massimo 3 giorni. È inutile, sa, quando arriva quest'ora io devo mangiare. Ah sì? Mm. Capisci Pasquale, lei, la signora, quando arriva quest'ora deve mangiare. Lei? Sì, magari non ho fame, né, ma è tanta l'abitudine che devo mangiare lo stesso. Noi invece, a qualunque ora, mai. E poi sta, signor Felice, ancora non mi sono abituata alla vostra cucina. Alla nostra cucina? Mm. E come vi potete abituare? Non siamo abituati neanche noi. No, ma io dicevo quella napoletana. Sì, è quella napoletana. Perché qui a Napoli cucinate tutto quanto con l'olio, mentre su da noi, nel nord, si fa tutto con il burro, eh? Tutto col burro. Ah sì? Sì. Allora fate tutto col burro? Tutto. Noi invece no, facciamo tutto con l'olio. Sì. Consumiamo da bicciane d'olio. Noi l'olio lo mettiamo persino solo in salata. Le macchie ce le facciamo con l'olio. Ma no. Vedete per esempio? Queste sono macchie d'olio. Mentre da loro in Piemonte le macchie ce le fanno col burro. Oh no, magari questo no. Ma certo che ne consumiamo molto, né? Pensi che mettiamo il burro persino nel caffè latte. Totò! Olio e burro, Andrea, un tempo si spartivano l'Italia, adesso non è più così, ci sono dei piatti però che impongono delle scelte quasi obbligate, no? Ne consumiamo parecchi. Allora, io vorrei dire una cosa, l'Italia è olio extravergine, punto, cioè ormai è così per tutti. Mm. Perché fa meglio? Perché anche, come posso dire, è la nostra grande forza, cioè noi siamo riconosciuti nel mondo per l'olio extravergine, per la dieta mediterranea, quindi tutti, dal nord al sud, dobbiamo puntare a quello. Infatti la cucina nuova dei giovani ristoratori, sì, di chi comincia e crea anche piatti, diciamo, moderni, sono tutti alleggeriti dai grassi animali. Perché abbiamo anche una grande... A me interessa una cosa nel piatto. Sicuramente guardo alla digestione che poi il mio cliente avrà, ma più di tutto che sia buono. Per distinguere bene i sapori, io ho bisogno dell'olio extravergine, che mi dà una pulizia di gusto. Se io uso un pesce buono, voglio sentire il gusto del pesce, così per la carne. Quindi l'olio è la nostra forza. Io punto tutto sull'olio extravergine. Sì, allora, sì. Diteci anche voi su che cosa puntate. 800 24 00 24, se avete un ingrediente che vi dà grandi soddisfazioni, raccontateci i vostri segreti. Se avete un ingrediente che vi mette mette in difficoltà un alimento che vorreste inserire con più frequenza nella vostra dieta quotidiana, ma ad esempio il pesce è un po' il tallone d'Achille di molti di noi, chiamateci perché i nostri esperti sono a vostra disposizione al nostro numero verde. E io vado subito da Patrizia, che ci chiama da Verona. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a tutti voi. Io sono di Verona, perciò Lago di Garda. Noi in casa usiamo rigorosamente olio di oliva e anche di quello buono preso dai contadini. Però il punto cruciale della mia, dunque premetto che ho 60 anni, per cui ho un 35 anni di vita matrimoniale, io non ho mai fatto i fritti. Infatti mia figlia dice: mamma, tu non mi hai mai fatto la cotoletta. E sappiamo bene che una signora che si avvicina all'età di essere nonna pensa che ai bambini piacciono molto le cotolette e le patate fritte, cosa che io non ho mai fatto a mia figlia. Allora, è cresciuta bene lo stesso, vero? È cresciuta però bene, ecco, lo stesso. Però no, per non farci sempre venire i sensi di colpa. Certo, ecco perché, certo. Io però mi chiedo, siccome quelle poche volte che io ho fritto, saranno state due in 35 anni di vita matrimoniale, ho usato l'olio d'oliva. E comunque senz'altro io nella frittura non sono esperta. Vorrei sapere dai vostri esperti quali regole si devono tenere per fare una frittura la più leggera possibile. Si può usare l'olio d'oliva, perché trovi sempre l'amica che dice: ah, io lo faccio con l'olio di semi di soia, che è il non plus ultra, ma è sempre rimasto. E allora così anche Patrizia potrà fare un po' di frittura. Venezia, noi abbiamo i mercati, ma due indicazioni flash, che poi insieme ad Andrea ritorniamo dopo i mercati e esploriamo un po' questo. Sicuramente l'olio extravergine d'oliva va benissimo per friggere. Costa parecchio però è evidente che non consiglio di usare la friggitrice. Conviene usare poco olio e utilizzarlo. L'extravergine va bene sia perché ha un punto di fumo alto, per cui si mantiene bene anche ad alte temperature, al contrario di quello che avviene per esempio per il soia o i semivari. E poi, essendo appunto extravergine, quindi non raffinato, ha anche quelle sostanze antiossidanti che lo proteggono durante la cottura. Dopodiché, per friggere bisogna avere alcune accortezze che magari lascio allo chef, anche se io, essendo di origini campane, friggere so come si fa. Allora Andrea, daremo dei consigli sulla frittura, ma anche per come cucinare il pesce, la carne, quindi il vostro alimento. Mi raccomando, all'800 24 00 24, una puntata proprio basata sui consigli dei nostri esperti e di quelli che suggerirete voi al nostro numero verde. A proposito di consigli, vi invito ogni giorno ad andare a visitare il nostro Daily Lab. Ogni giorno i nostri esperti suggeriscono un modo, un aiuto per prenderci cura di noi e quindi per stare sempre meglio con noi stessi e con gli altri. E andate sul sito di Radio 24, www.radio24, e vi trovate lì il nostro Daily Lab, la nostra officina del benessere. Essere benessere. Non mandiamo a farci friggere, friggiamo noi coi consigli oggi dei nostri esperti. Andrea, olio per la frittura, come ci suggeriva Venezia Villani, perché è proprio quello che ci assicura, no? Sopporta meglio le alte temperature. E tu sicuramente da chef hai dei trucchetti in più, ad esempio l'olio profondo. E molte persone, considerando quanto costa l'olio, stringe un po' il cuore vedere tutto quell'olio, che e poi cosa si fa di quell'olio e dove si mette? Ecco, Andrea. Allora, l'olio, innanzitutto bisogna dire una cosa: non è che l'olio di semi sia il demonio, dipende solo da come è estratto e da quali semi viene. Quindi un olio di semi estratto a freddo lo trovate in erboristeria ed è costoso, non è che costi poco. È sicuramente un olio che può andare bene. Io friggerei anche in olio extravergine di oliva, ma extravergine dico, non olio di oliva, extravergine. Ecco, extravergine, perché uno dice extravergine costa, io prendo l'olio di oliva. È molto diverso, diverso come estratto e come viene fatto. Non viene un po' pesantina? Allora, scrive Aldo. La questione è quella di mantenere le temperature costanti. Se voi mettete io consiglio sempre la frittura profonda, perché quella, a che differenza vuol dire di quella, di metterla in, un, esatto, in una padella con il bordo alto, esatto, in una pentola, in una padella con il bordo alto, possibilmente di ferro, perché trasmette bene il calore, lo trasmette in maniera immediata, e quindi immergete nell'olio il prodotto da friggere poco alla volta, tenendo la temperatura il più costante possibile, perché il problema, la frittura diventa pesante, penso, non so, adesso è la stagione dei fiori di acacia, i fiori, anche quelli di sambuco, esatto, i fiori di sambuco in pastella fritti e poi magari con un goccio di miele, sono buonissimi. Allora, per far sì che la frittura sia croccante e non carica d'olio, deve essere a temperatura, di modo che immediatamente diventa si chiude praticamente la parte esterna, perché diventa croccante, diventa tostata e l'olio non penetra all'interno. Ma io come faccio a capire che la temperatura giusta? Ne provo un pochino, un goccio di pastella all'interno dell'olio. Se diventa subito croccante, subito dorata, va bene, e poco alla volta, perché altrimenti la temperatura cala, quindi poco alla volta si tira su, si asciuga, non si può fare altro. Venezia, sì, bisogna usare effettivamente poco cibo ogni volta da friggere, per non abbassare troppo la temperatura, proprio per questo, perché più si abbassa la temperatura più si assorbe l'olio, e quindi oltretutto l'olio di extravergine effettivamente è un po' viscoso e quindi tende poi a lasciare effettivamente un gusto più forte. Per quanto riguarda gli oli di semi, volevo solo specificare una cosa: sono molto diversi tra di loro, nel senso che quando si parla di semi sembra che siano tutti uguali, in realtà hanno appunto punti di fumo molto diversi, per cui anche un olio, diciamo, di buona qualità, ma di soia o di semivari, io sinceramente lo sconsiglio per la frittura, mentre invece per l'arachidi facciamo in classifica. Allora, il primo extravergine d'oliva, siamo tutti d'accordo, l'arachide che va benissimo, secondo arachide, per dire il mais e il girasole, che sono degli oli abbastanza delicati, se si fa la frittura ma proprio tipo avvoltoi sulla padella, che non si deve lasciare un attimo, diciamo così, senza controllo, sì, sono il telefono, sono il citofono, niente, non dobbiamo niente, chiamano a tavola, niente. Cioè, se si sta lì molto sulla padella, molto sul pezzo, sì, assolutamente, allora si può anche fare. Allora, quindi abbiamo extravergine d'oliva, primo in assoluto per fritture super sane. Consiglio, Nico, per gli appassionati, per chi ama molto cucinare, una piccola friggitrice con controllo numerico, cioè in cui tu imposti una temperatura e non va mai oltre quella. Ma la dottoressa Reverso, che noi mangiamo tante cose fritte, non lo so. Era quasi svenuta, perché c'era questa apoteosi della frittura, i fiori di sambuca, e zucchinine, e frittelline, eccetera. Ogni quanto. Ma poi sembro proprio quella cattiva. Sì, un po' sì. No. Sì, no. Ma ogni quanto dipende. Una volta, perché... no, una volta, due volte al mese, dai, la frittura sì. Ma sì, se noi dobbiamo sempre, secondo me, equilibrare. Quindi abbiniamola a tantissime verdure, facciamo un po' di attività fisica. Diciamo questo delle verdure, perché abbinandole alle verdure c'è una sorta di compensazione. Questo è un altro trucchetto, dottoressa Reverso. Sì, perché le verdure contengono fibre, e quindi le fibre, ne sappiamo tutti i benefici, tra l'altro rallentano l'assorbimento dei grassi, perché comunque con le fritture assumiamo anche dei grassi, non è inevitabile. Ecco. Secondo, perché le verdure contengono gli antiossidanti, per cui compensiamo quelli che possono essere i danni dei grassi a livello cellulare, tenendo conto però che non è proprio una cosa così grave. Ma assumere ogni tanto qualcosa di fritto. Ma noi siamo anche un po' goderecci. Goderecci, ecco, con infatti, la testa. Infatti. Andrei da Sergio, che ci chiama da Cremona. 800 24 00 24. Buongiorno a lei. Che sta facendo, Sergio? Dovrebbe abbassare la radio. Questo... Buongiorno. Buongiorno, Sergio. Chef o pasticcione? Niente, no, io volevo intervenire dicendo che... faccio delle verdure e soprattutto al vapore, e quindi volevo sapere se magari c'era qualche accorgimento particolare, o seppure quello che sto facendo va bene. Cioè, io faccio le zucchine al vapore, il cavolo al vapore e la Senta, zucca al Sergio, vapore. Sergio, ma dopo tutto questo cornetti, vapore... Mentre invece per i cornetti li faccio in acqua, li lessa in acqua bollente, quindi non so se perdono. Senta, Sergio, ma qual è la sua ricetta più trasgressiva? Ma la ricetta più trasgressiva sarebbe quella... Siamo in cucina, eh? Ah, siamo in cucina. No, sarebbe quella di fare le asparagi con l'uovo. Oh, eccole lì, con l'uovo burro, e parmigiano, e uovo, sì, e asparagi. Allora, Andrea, che te la ridi, Allora, Sergio ha iniziato molto bene e poi sollecitato bolliva e poi Ale. E poi si finisce con l'asparago. Però, verdura al vapore? Sì, va benissimo. Fatele croccanti, possibilmente, come stava dicendo Sergio, non anche i cornetti, non nell'acqua. Falli pure nel bollitore classico, sì, che avrai a casa, va benissimo. Tenerli croccanti e poi subito sbianchirli, si dice fermarli in acqua e ghiaccio, perché così fermiamo la cottura, li manteniamo il bel colore, un buon sapore, la croccantezza e tutti gli elementi nutritivi. Io ad esempio nell'acqua del vapore, dimmi che faccio bene, metto le erbettine che mi crescono nei miei vasetti del balcone, o maggiorana, origano, oppure metto due gocce di aceto di mele, vapore profumato, eccetera. Faccio il vapore profumato. Va benissimo. Vado bene? Certo. Ok, 800 24 00 24, diteci la vostra. Mirella dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Pronto? Buongiorno, Mirella. Sì, buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione, la seguo sempre ed grazie. È sempre interessantissima. Ma grazie Mirella, lei è un babà. Io sì, volevo un attimo dire come condisco le mie insalate e se va bene, o dai, forse metto troppo. Vai. Dunque, di solito io uso l'olio sempre extravergine, sì, l'origano e il limone al posto dell'aceto. Qualche volta l'aceto di mele, ma preferisco il limone. Sì. Perché si dice che il limone fa assorbire meglio il ferro delle verdure, mi sembra. Ma brava Mirella, ma lei mangia in testa la Paola Reverso a proposito, diciamo, di questo. Che a me piace molto l'aglio, quindi metto l'aglio in polvere, uso e poi uso anche un mixer di curry, cannella e zenzero. Magnifico. E poi al posto del sale, perché non uso sale completamente, faccio diciamo un mix di semi di girasole, semi di zucca, Mirella, e anche di noci, pistacchi, gomasio. Prima usavo il gomasio col sale, adesso non usando più sale lo uso senza. E poi tra l'altro faccio anche germogli da me, non sempre, ma spesso, Mirella, diciamo. ma lei è fantastica, dottoressa Reverso. Paola, ci sono tante cose, per carità, va bene, sono tutte cose, sono tutti alimenti è sani. È impegnativa l'insalata, sì, di Mirella, però lavora un sacco. No, più che altro, vabbè, questo dovrebbe dirlo Andrea, non spetta a me, però c'è forse una mescolanza di sapori, sarà che a me piace un po' di delicatezza, ecco. Però comunque sono tutte cose giuste, usare le spezie, usare i semi oleosi come i semi di girasole e di zucca. Riduciamo il sale, ma meglio limone o aceto? Beh, come ha detto lei, se vogliamo aumentare l'assorbimento del ferro delle verdure, meglio il limone, perché la vitamina C potenzia l'assorbimento del ferro. Se è una questione di appetibilità, possiamo anche alternare, insomma, se ci fa piacere, se ci piace l'aceto, perché no. Ci sono anche in vendita nei supermercati del biologico degli agrodolce, tipo un agrodolce di mela per esempio. Sono molto piacevoli, sono gradevoli e spesso aiutano a far mangiare le verdure ai bambini, questi agrodolce. Fantastico. 800 24 00 24, abbiamo Tonia da Matera, ma abbiamo Carmelo Lauricelli in regia, quindi mi sta dicendo che è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi siamo di nuovo qui per voi. Essere e benessere. Mia cara Tonia, che ci chiama da Matera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci, sta cucinando, sta pensando di cucinare qualcosa per stasera, che sta facendo Tonia? Allora, io sono sul posto di lavoro innanzitutto, e per l'ora di pranzo non so proprio che cosa dobbiamo mettere su. Niente, comunque la mia telefonata verteva più che altro su un'informazione che volevo sapere, volevo avere. Sì. Per quanto riguarda la conservazione degli alimenti, ecco, nello specifico gli ortaggi, sì, i carciofi per esempio. Io uso solitamente bollirli pochissimi minuti e poi conservarli sotto vuoto. Dalle nostre parti si usa conservarli anche sott'olio. Sott'olio, sì. A proposito però, di olio, extravergine d'oliva. Naturalmente, perché dalle parti nostre, certo, solo Matera, questo. Solo questo c'è. E niente, il mio dubbio era più che altro se la conservazione sott'olio fosse una conservazione sana, soprattutto perché insomma ho sentito qualche volta parlare del piccolo botulismo. Quindi le chiedevo se era consigliabile la conservazione degli ortaggi sott'olio oppure sottovuoto, oppure creando un sottovuoto, quindi la bollitura nei vasetti di vetro, ecco, la tradizionale. La tradizionale, mi piacerebbe dirle, ce ne mandi le due versioni, poi Venezia Villani risponde, ma non posso farlo. Purtroppo no. Possiamo, ecco, rispondiamo subito. Allora, per quanto riguarda le conserve, bisogna sempre fare molta attenzione, perché per quanto il rischio del botulino sia veramente minimo, quella volta che capita poi è drammatico. Per cui diciamo che le regole importanti sono: il botulino è nella terra, non è nell'aria o chissà dove. Quindi la prima cosa quando si fanno conserve alimentari è lavare perfettamente tutto, non lasciare tracce di terra, perché il botulino sta nella terra. Questo la gente non lo sa, a volte apre un barattolo e dice oddio, magari c'è botulino nell'aria. No. E altra regola importante: il botulino non piace l'ossigeno, per cui il sottovuoto non è una cosa che aiuta, anzi lo fa favorire. Al botulino invece non piacciono lo zucchero, vabbè, in questo caso le carciofi ovviamente no, anzi disgusta l'idea, e l'acido. Per diminuire sempre il rischio è importante utilizzare appunto l'aceto e appunto fare in modo che non ci sia un ambiente troppo neutro, perché l'olio effettivamente tende invece quasi a favorire, perché blocca però il passaggio con l'acido. C'è una tradizione, Andrea, c'è una tradizione, ma sottoli, no? Bisogna anche fare attenzione, cioè la tradizione è importante, ma anche la salute, insomma. Allora io ho detto una cosa interessante, il sottovuoto che pochi hanno a casa, e invece io consiglio tantissimo, perché con il sottovuoto si possono ottenere dei risultati eccezionali. Allora, non parliamo di lunga conservazione, quello va bene nel vetro, va bene con o acidità appunto o zuccheri come si diceva prima, ma a me interessa spiegare alla signora. Allora, lei mette, prima li cuoce in acqua e poi li mette sottovuoto, invece no, li mette subito sottovuoto i carciofi puliti, prima gli fa un bagno di acqua e limone, o anche può comprare della vitamina C in farmacia in polvere, un pochissimo, evita il sapore del limone troppo invasivo. Quindi vedi che altro trucco. Acqua e ghiaccio, li così rimangono belli chiari, subito nel sottovuoto, un goccio d'olio, pochissimo sale, chiude la busta sottovuoto e poi li cuoce con un termometro, a caso ormai bisogna si trova, comprarlo, però insomma termometro. Se la signora ha il sottovuoto il termometro non è un problema. A 90 gradi per 7-8 minuti a seconda della grossezza dei carciofi, di come li ha tagliati, li toglie subito di nuovo acqua e ghiaccio per fermare la cottura. Si possono conservare così svariati giorni, molto più che se li avesse cuotti direttamente in acqua. Ci aiuta tantissimo la tecnica, la quel modo abbiamo anche tolto, aiuta, abbiamo pastorizzato in quel modo lì, abbiamo pastorizzato. Un ascoltatore mi fa venire voglia di parlare del seitan, di cui so che è una grandissima appassionata la dottoressa Reve. Abbiamo pochi minuti perché poi voglio sentire Paolo dalla provincia di Bergamo. Seitan, si possono preparare ragù, spezzatini, un po' si può usare al posto della carne, è un alimento proteico. Sì, il seitan è glutine di frumento oppure di camuto, di farro, quindi la parte più proteica del cereale. Ricordiamoci però che essendo un cereale ha bisogno di essere bilanciato con un legume dal punto di vista degli aminoacidi essenziali, quindi può essere usato in alternativa alla carne, ma solo se noi lo abbiniamo a dei legumi come i piselli, le fave, i fagioli. Adesso abbiamo anche la stagione che ci offre quelli freschi, perché no? Perché no? Paolo, allora, dalla provincia di Bergamo, velocissimo, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere agli esperti, siccome vivo in un paese di montagna dove mi è quasi impossibile acquistare pesce, consumo frequentemente il pesce naturale, tipo il salmone, lo sgombro, piuttosto che il tonno. Ci sono delle controindicazioni a usare questi alimenti che nominalmente sono senza conservanti e sono al naturale, oppure non ci sono problemi? Allora, dottoressa Reverso, le piace quest'idea? Vive in montagna, non è che può andare a comprare sempre il pesce. Meglio quello surgelato o quello in scatola? Io intanto sono sempre molto favorevole all'equilibrio, per cui mi complimento con il signore, perché è giusto, lui deve per forza trovarlo. Allora, se non ci sono problemi di ipertensione, quindi pressione alta, vanno bene entrambi. Se invece ci sono problemi di ipertensione, ricordiamoci che il pesce in scatola, quello al naturale, contiene molto sale, quindi allora forse è meglio il surgelato. Anche se al naturale. Sì, Sì. Anche se al naturale. È più salato, certo. Allora, io voglio ricordarvi che noi andremo, anche Essere Benessere, sapete, andrà al Salone del Libro di Torino e io vorrei che voi veniste a trovarmi, a trovare tutta Radio 24, ma a trovare in modo particolare me. Quindi noi siamo nel padiglione 2 allo stand L161, ci sarete voi al Salone del Libro, siete già tutte e tre invitati, così vi siedo lì davanti, ecco, e noi avremo un grandissimo scrittore, direi un narratore speciale, sarà con noi Harry De Luca, parlerà dei suoi libri di montagna, di ascensioni e ascese, offrirà agli ascoltatori a casa e quelli presenti al salone la possibilità di ricevere una copia autografata del suo ultimo libro pubblicato da Feltrinelli, che si intitola Edisse. A questo proposito io vi invito a scrivermi la vostra arrampicata più complessa, quella più difficile, quella che vi ha regalato l'ascensione più indimenticabile. Può trattarsi di un vero e proprio racconto di montagna, oppure potete parlarci di una arrampicata, di una salita in senso metaforico, che vi ha permesso di raggiungere un po' una certa altezza, un distacco e vedere il mondo in un altro modo. I due racconti più belli li aspettiamo su Facebook e avremo modo di fare ricevere tra quelli che arrivano, tra quelli che ci piacciono più, il libro di Harry De Luca, così a chi viene al salone, altri due, e poi ad una telefonata in diretta. Devo salutarvi, saluto i miei esperti, speriamo di esservi state utile, scriveteci i vostri trucchi, i vostri dubbi sul nostro profilo Facebook. Voilà, buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.